sono non uno sprint, è una maratona. Se fossi Pelé saresti Maradona. Vorrei farmi Doja, I can't be a woman. Un movie mi insinchi in mezzo alla folla. Canto una nota, appare la Madonna. Vedo che arriva con la minigonna. Amore per tutti, anche se poi mi costa. Se scoppi una volta la cecchi su Costar. Se puoi, resta qui con noi. È una festa nello spazio solo. Un rave tra i corridoi. Non ti annoi. Faremo casino, ma se mi stai più vicino ci illuminerà il mattino, baby. Che vedo la dedica a te. Forse per me potremmo anche ballare, ma vuoi che finisca in hotel. Tra le lenzuole e le onde del mare mi sciogli. Quando mi guardi, poi mi accarezzi. Vorresti farmi davanti a tutti, ma senza spogliarci. Siamo vestiti, ma solo ti sguardi. Cambio stanze, cambio anche la musica. So che mi vuoi, pure che non sei l'unica. Due tiri e poi mi dici fumala. Mi sento sbronza, ma la mente è lucida. Per te fermerai il tempo per potermi vivere in loop anche questo weekend. C'è tutto il weekend. Se puoi, resta qui con noi. È una festa nello spazio solo. Un rave tra i corridoi. Non ti annoi. Faremo casino, ma se mi stai più vicino ci illuminerà il mattino, baby.